Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buongiorno a voi. Corriamo subito al nostro sommario. Sono le 11.13, andiamo. Tremori, formicolii e dintorni. Segnali innocenti o campanelli d'allarme. Tumore del testicolo. Battere la malattia e preservare la fertilità. Cogli la bellezza del momento presente. La palpebra che balla, il braccio che formicola, la gamba che sembra temporaneamente addormentata, il piede che non risponde. Oggi parliamo di tremori, formicolii, punture di spillo, crampi, piccoli fastidi che possono variare per intensità e durata, a volte difficili da descrivere con precisione. Proveremo a farlo oggi guidati dal professor Alberto Albanese, direttore della prima neurologia all'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e professore di neurologia all'Università Cattolica, che ci aiuterà proprio a capire quando è il caso di fare finta di nulla e quando invece è necessario considerarli con maggior attenzione. Professore, bentornato. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Professore, sintomi banali, spesso transitori, ma un po' fastidiosi. Se si risolvono nel giro di poco, vabbè, insomma, non ci preoccupiamo, ma a volte ritornano con una certa frequenza. Penso ad esempio a chi, appena si corica, deve fare i conti con una frenesia alle gambe, o chi ha frequenti crampi, avverte formicolie a piedi e mani. La prima cosa che ci viene in mente è: avrò assunto una posizione sbagliata o sarà un difetto di circolazione? Sì, alcuni sono messaggi, diciamo, che il nostro corpo riceve dai nervi. Qualche formicolio può essere assolutamente normale, e tutto ciò che noi sentiamo deriva dai nervi che percepiscono tantissime informazioni e ne portano solo alcune alla nostra attenzione. Altri sono sintomi veri e propri di quelli che possono essere disturbi o piccole malattie, non necessariamente gravi, ma possono essere fastidiosi. Ad esempio, le gambe senza riposo possono essere è una sindrome che può dare molto fastidio e che può causare questa frenesia alle gambe quando si va a letto, e si cura con medicine in questo caso. Ecco, noi parleremo anche dei trattamenti, dei casi in cui è necessario appunto utilizzare una terapia farmacologica, e nei casi più seri si può ricorrere anche a degli interventi. Ne parleremo nel corso della trasmissione. I messaggi stanno già arrivando al 349-238-6666 e le chiamate all'800-24-0024. Mi scrive Dani: di notte mi vengono spesso crampi ai piedi. Professore, questa è un'indicazione che le è sufficiente per così orientarci, oppure lei ha bisogno di altri dettagli, ad esempio il sesso, l'età e altre indicazioni? Sì, sicuramente di numerosi altri dettagli. I crampi sono una percezione di contrazione muscolare che può essere legata a tantissime cause, da cause metaboliche a cause neurologiche, e quindi molti sono i dati importanti che bisogna raccogliere, per esempio lo stato ormonale, il sesso della persona, le condizioni generali, quindi anche le abitudini di vita, l'attività che svolgono, l'attività anche muscolare che svolgono. Quindi sì, per essere specifici è necessario avere molti più dati. Ma per orientarci sui crampi possiamo fare già un piccolo distinguo di quando sono innocenti, quando sono dovuti ad esempio a uno scarso riscaldamento, penso a chi fa sport, oppure se vengono di notte, se vengono unilateralmente o tutte e due, a tutte e due le gambe? Che cosa possiamo dire, professore? Possiamo dire essenzialmente che sono muscolari, possono essere di origine muscolare o di origine neurogena. Se sono di origine muscolare sono legati all'attività che quel muscolo fa o quei muscoli fanno, come si osserva quando si fa sport o si fa un'attività intensa. E se sono di origine neurogena vuol dire che arrivano dei comandi a questi muscoli, che sono dei comandi di cui bisogna capire il perché, che possono essere legati a una situazione fisiologica o eventualmente ad una malattia, e quindi va distinto. Può esserci anche una malattia dei muscoli, oltre che dei nervi, ma in linea di massima i crampi muscolari nella maggior parte dei casi sono crampi da esercizio o da cause metaboliche. Luisella ci scrive: ho la mano destra sempre fredda, ma è una sensazione soggettiva perché chi mi stringe la mano non se ne accorge. Come mai? Anche questo è un sintomo di cui vorremmo parlare proprio nel corso della trasmissione. Luisella ci dà subito lo spunto. Professor Albanese. Sì, bisogna sapere che i nervi controllano non soltanto i muscoli, come tutti sanno, ma anche gli organi interni, quindi controllano le arteriole, controllano anche le ghiandole sudoripare, controllano anche l'erezione dei peli, quindi la posizione dei peli sulla pelle, quindi i nervi controllano veramente lo stato completo del nostro corpo. Quindi possono esserci delle lievi anomalie di tipo neurologico che cambiano la comunicazione dei nervi e che però possono non apparire, non essere percepite all'esterno, quindi la persona potrebbe avere una sensazione soggettiva che non si riflette in una variazione termica della mano. C'è da preoccuparsi, professore? No, ci sono anche persone che hanno le mani sudate, per esempio, che hanno iperidrosi, che anche quella è di origine neurologica, neurogena, quindi arrivano troppi comandi alle ghiandole sudoripare e per esempio quello può essere un grosso problema relazionale e assolutamente benigno. Poi si dice mani fredde e cuore caldo. Alberto da Ancona: mio cognato mi ha fatto notare che mi tremano un po' le mani, l'ha notato al bar mentre tenevo in mano la tazzina del caffè. Apriremo il capitolo del tremore, ma professore, iniziamo a dare qualche indicazione per i nostri ascoltatori da casa. Il tremore è un movimento ritmico, per cui diciamo è come un'oscillazione di un arto, di un braccio o della testa, di una parte del corpo intorno a un punto centrale di equilibrio. Ha molte cause, spesso viene temuta la presenza di una malattia di Parkinson, ma ci sono tanti tremori che non sono legati alla malattia di Parkinson, tremore essenziale, tanti tremori, c'è la distonia che può dare tremori, vi sono molte forme di tremori benigni e a volte la decisione se curarli o no dipende proprio dal compromesso tra gli effetti terapeutici e gli effetti collaterali delle terapie, soprattutto in presenza di tremori molto lievi. L'altra sera davanti allo specchio ho notato che la palpebra superiore destro dell'occhio ballava, ma non avvertivo alcun disturbo. Ora mi dico: rischio di fare l'occhiolino senza accorgermene? Paolo da Modena. Professore, tante volte noi avvertiamo la sensazione che l'occhio balli un po'. Paolo dice che vede questo tremore, in altri casi invece, anche se lo chiediamo magari ad un amico, mi sento un po' la palpebra che balla, dice no, non si vede nulla. Che cosa sono questi? A volte per stanchezza può esserci questo movimento ritmico delle palpebre superiore o inferiore che in genere passa con il riposo ed è legato al fatto che i muscoli orbicolari dell'occhio, che sono tre per ogni occhio, sono contratti in maniera molto continua durante la mimica facciale, quindi per molte ore al giorno, e possono andare incontro a questo tipo di stanchezza, tra virgolette. E altre volte invece la causa è diversa, per esempio può esserci un emispasmo facciale, quindi un'irritazione del nervo facciale che invia dei comandi alterati, e allora sì che si vede veramente un occhiolino ritmico piuttosto evidente che può interessare anche la bocca, quindi metà del viso. Guidando la moto mi si addormentano le prime tre dita della mano sinistra, pollice, indice e medio. È normale, Luca da Caserta? Io direi è un po' pericoloso, professor Albanese, per la guida. Sarà probabilmente, presumo che sia una malposizione del polso, quindi evidentemente questa persona ha la posizione, una posizione del polso che evidentemente tira un po' il nervo e gli rende difficile controllare bene le prime tre dita e quindi riceve un segnale dal nervo di allarme e dire io non sono in condizioni perfette. Probabilmente può cambiare la posizione di guida. Sino ad ora abbiamo, così tanto per darvi un po' spunti per chiamarci e per descrivere il vostro problema, analizzato un sintomo alla volta, ma professor Albanese, tante volte i sintomi vengono insieme. Ne parleremo anche di questo, perché ci sono delle combinazioni che diventano fastidiose e forniscono al medico delle indicazioni importanti. Quindi 824 0024 telefonate o 349 238 6666 se volete mandarci un messaggio. La buona novella. E adesso voltiamo pagina per parlare di tumore del testicolo. È la forma di cancro più frequente negli uomini tra i 20 e i 30 anni. Ogni anno nel nostro paese, secondo i dati diffusi dalla Società Italiana di Urologia, ne vengono diagnosticati circa nuovi 2000 casi. Ma, questa è la buona notizia, la prognosi di questi tumori è migliorata in modo sensibile, tanto che oggi le neoplasie del testicolo sono guaribili nella maggior parte dei casi. Ne parliamo oggi con il dottor Paolo Zucali, specialista dell'unità operativa di oncologia medica ed ematologia di Humanitas. Dottore, buongiorno. Buongiorno. Dottore, non esiste una prevenzione specifica, ma esistono alcuni sintomi che dovrebbero spingere ad un controllo. Quali sono? Ma allora diciamo che la prima cosa più importante è il riscontro di un nodulo a livello testicolare oppure un aumento di volume a livello del testicolo, la comparsa comunque di un gonfiore della pesantezza del testicolo. Quindi è molto importante insegnare ai ragazzi l'autopalpazione testicolare, perché questo consente di identificare precocemente la comparsa di questi sintomi e quindi di garantirci anche una diagnosi precoce. Ci sono anche dei fattori di rischio? Ci sono dei fattori di rischio che sono il criptorchidismo, cioè la ritenzione del testicolo in età postnatale, ed è molto importante che i testicoli ritenuti vengano riportati nello scroto entro i 6 anni per ridurre il rischio di sorgenza di questa malattia, che è circa 40 volte superiore nei pazienti che hanno il testicolo ritenuto rispetto alla popolazione normale. E poi c'è un altro fattore di rischio che è rappresentato dalla sindrome di Klinefelter, che è una patologia cromosomica però piuttosto rara. I pazienti che hanno già avuto un tumore del testicolo hanno un rischio di circa 2-5 volte superiore di contrarre un nuovo tumore del testicolo. Oggi, dottore, da questo tipo di tumore si può guarire ed è soprattutto possibile preservare la fertilità. È un aspetto fondamentale questo, dato che il tumore insorge in pazienti giovani. Sì, questo è un aspetto molto importante. Allora, innanzitutto è possibile guarire da questa malattia. Se la malattia è identificata in uno stadio precoce, abbiamo una possibilità di guarigione pressoché totale, intorno al 100%, ma anche in malattia localmente avanzata o metastatica è possibile avere una probabilità di guarigione piuttosto elevata. Ci aggiriamo intorno al 50% dei pazienti anche con malattia metastatica cattiva prognosi. La fertilità è un aspetto estremamente importante ed è indispensabile che il paziente faccia riferimento a dei centri che siano in grado di preservare l'aspetto riproduttivo. Ci sono varie metodiche, quella più importante è quella ovviamente della raccolta del seme prima di qualsiasi approccio terapeutico, in modo da garantire la riproduzione futura. Fondamentale è l'approccio multidisciplinare ed, essendo una patologia rara, è importante che questi pazienti afferiscano in centri che si occupano quotidianamente di questo tipo di patologia, che possa garantire un approccio a 360 gradi. Io la ringrazio, le auguro una buona giornata. Grazie mille, altrettanto, arrivederci. Pronto soccorso. E intanto mi si è addormentata una gamba, professor Albanese, ma perché ho l'abitudine di sedermi in modo sbagliato. Eh sì, c'è qualche nervo stirato, ecco, sicuramente. Sì. Allora, intanto andrei da Luca, che ci chiama da Imperia. Buongiorno, Luca. Sì, buongiorno. Senta, io volevo fare una domanda a proposito di un formicolio che ho a tutte e due i pollici in contemporanea, a volte anche non apparente, cioè non si vede che si muove qualcosa, però proprio è una cosa abbastanza fastidiosa. Sono i pollici di tutte e due le mani. Ma solo i pollici? Beh, Luca, sì. Strano, no? Professore Albanese. Sì, leggo il giornale e mi trema tutto. Ma quindi è un tremore, c'è è un formicolio o un tremore? È un disturbo della sensibilità o del movimento? Un tremore. Allora, Luca, vede che lei è veramente stato, ci è stato utile, perché insieme al professor Albanese cerchiamo di capire formicolio e tremore. Spesso siamo noi, proprio anche quando lo riferiamo al medico, che usiamo questi due termini un po' come sinonimi. Invece, professore, ciascuno di questi indica una situazione ben precisa. È il caso di Luca, no? Che ha telefonato dicendo: mi formicolano i pollici quando leggo il giornale balla. Allora, o ha un formicolio o un tremore, o magari tutte e due insieme. Un tremore formicolante. Professore, abbiamo bisogno di lei. Sì, il formicolio è una sensazione soggettiva, come avere le formiche sulla pelle, quindi è puramente una sensazione, non c'è nessun movimento, ed è evidentemente il rapporto ad un messaggio che i nervi sensitivi afferenti al cervello inviano. Invece il tremore o i movimenti involontari sono qualcosa che si vede, quindi si vede un movimento che non dovrebbe esserci. In questo caso non ho capito se è una sensazione soggettiva o se c'è un movimento che si vede. È ancora in linea con noi Luca. Sì. Lei mi ha detto: mi balla il giornale. Spesso, però a volte addirittura non ho questa sensazione, sento che muove qualcosa ma proprio non si muove, proprio il pollice magari rimane fermo, però sento che comunque c'è una specie di tremore. Sì, perché dei tremori molto lievi possono essere percepiti dalla persona che li ha, ma non arrivare a livello di visibilità, perché se l'ampiezza è molto ridotta la persona sente a livello articolare che c'è una vibrazione, ma non si vede perché non è di ampiezza sufficientemente elevata da essere visibile all'occhio. ginocchio, quindi forse questo è il suo caso. E io vorrei dire questo, che tutti noi tremiamo, nessuno di noi è veramente fermo, però tremiamo tutti ad un'ampiezza così limitata da essere invisibile. Quando parliamo di tremore rilevante, quando il tremore assurge a livello di visibilità, quindi probabilmente l'ascoltatore ha un tremore lievissimo, diciamo fisiologico, quello che noi chiamiamo il tremore fisiologico, che probabilmente, presumo, non abbia alcuna importanza clinica. Professore, fa differenza se questa sensazione l'avvertiamo o si vede, l'avvertono anche gli altri quando lo guardano, se è bilaterale o unilaterale? Sì, perché il tremore fisiologico è spesso bilaterale, per questo anche io ho azzardato questa ipotesi, perché ha parlato di entrambi i pollici. E noi abbiamo recuperato un'altra informazione. Io vorrei sentire Biagio da Firenze prima di andare ai mercati. Biagio, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno professore. Io volevo porre una domanda al professor Albanese. È un periodo abbastanza lungo, circa un annetto, che mi sveglio durante la notte con in particolare il braccio destro, ma a volte anche il braccio sinistro, completamente, io dico addormentato, ma è una sorta di sensazione di formicolamento, cose del genere, ma tutto il braccio completamente, in particolare il braccio destro, a volte mi succede anche al braccio sinistro. Ma mi ci sveglio, cioè una sensazione talmente forte che mi sveglia e devo muovere il braccio, devo rimetterlo in circolo per passare un po' di tempo e poi riprendere la sensazione normale del braccio. Sicuramente un effetto da posizione legato ad una lieve compressione di un nervo, o forse il nervo mediano, o forse legata al plesso brachiale. Bisognerebbe vedere, forse fare anche una semplice lastra. Lei non so se ha disturbi altrimenti quando muove le braccia o quando ruota la testa con un angolo molto forte da un lato o dall'altro. Biagio, provi a muovere la testa. No, questa sensazione non ce l'ho. Perché alcune persone hanno delle apofisi laterali ai lati del collo che possono toccare o schiacciare le arterie o i nervi e quindi creare una sindrome comunque percepibile. Oppure questo può avvenire nel sonno, perché nel sonno c'è una rilassatezza muscolare e quindi la escursione delle articolazioni aumenta, perché i muscoli sono atonici, e quindi in quelle condizioni è possibile che il braccio assuma una posizione che normalmente da sveglio non assumerebbe, quindi con degli angoli più estremi, e quindi può a quel punto stirare o comprimere dei nervi. E noi siamo tornati in linea, con noi abbiamo il professor Alberto Albanese, direttore della prima neurologia all'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e professore di neurologia all'Università Cattolica, che ci sta aiutando a distinguere alcuni sintomi che molti di noi avvertono, facendo anche un po' di confusione. Abbiamo parlato di formicolio e di tremore, ma parliamo anche della sensazione di addormentamento, dei crampi, e arrivano davvero tantissimi messaggi. Voglio leggerne alcuni. 49 anni, maschio sportivo, di notte ho scarica elettrica alle gambe e anche se riesco ad addormentarmi ho continui movimenti, quasi calci. Quindi ci siamo occupati di problemi alle braccia, alle dita, ai pollici del nostro amico Luca. Adesso scendiamo, occupiamoci delle gambe, che spesso formicolano, hanno una sorta di frenesia in alcuni momenti della giornata, in particolare la notte è un momento a rischio. Professor Albanese. Sì, ora bisognerebbe vedere quanta attività sportiva fa questa persona, può darsi che ne faccia effettivamente molta e non faccia abbastanza attività di stretching, che invece è importantissimo fare in rapporto all'attività sportiva, e quindi questo potrebbe spiegare il perché c'è questa attività postuma, diciamo, la sera, la notte. In alternativa potrebbe trattarsi proprio di un fastidio serotino, diciamo, spontaneo, come nell'ambito della sindrome delle gambe senza riposo, che sono questi movimenti, questi fastidi, diciamo, fastidiosi e dolorosi movimenti delle gambe, che si attenuano soltanto muovendosi ancora di più. In alternativa potrebbe essere un disturbo diverso legato a delle fasi dell'addormentamento, diciamo un'accentuazione dei normali movimenti involontari dell'addormentamento. Professore, io aprirei una piccola parentesi sulla sindrome delle gambe senza riposo, perché è molto fastidiosa, interrompe il sonno, anzi non riesce, la persona che ne soffre non riesce ad addormentarsi bene, si sveglia, deve camminare un po' e insomma la qualità del sonno e del riposo viene disturbata pesantemente. Quando e come si interviene? Si interviene quando è necessario, nel senso quando è abbastanza grave. È una sindrome molto comune, più comune di quanto si pensi, poco diagnosticata, quindi molte persone ce l'hanno e se la tengono perché non chiedono neanche aiuto al medico in questo senso, non pensano neanche di poter chiedere aiuto al medico. È caratterizzata da questa percezione soggettiva appunto di formicoli, di senso di tensione, di incapacità diciamo a distendere soprattutto le gambe, ma a volte anche le braccia, che migliora effettivamente muovendosi o nel letto o addirittura alzandosi, camminando un po', poi rimettendosi giù, e quindi rende difficile il sonno proprio perché non si riesce ad avere la calma sufficiente per prendere sonno. Se è abbastanza grave si cura con delle medicine, ha un problema dal punto di vista terapeutico che spesso è necessario aumentare le dosi, per cui si crea quello che si chiama augmentation, cioè l'incremento obbligatorio, e che può portare ad un escalation di dosaggi, quindi ci vuole una certa perizia nel trovare il punto d'incontro tra il dosaggio sufficiente e l'attenuazione sufficiente dei sintomi, senza voler a tutti i costi cercare un azzeramento dei sintomi. Giovanni ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno. Siamo qua. Sì, eccomi. Allora, io volevo chiedere al professore, mi capita, ho 55 anni, non sono uno sportivo, quello che si può definire uno sportivo, però sono uno che sono un buon camminatore. Sì. Cammino sicuramente molto durante la giornata, faccio molte volte le scale, per cui mantengo la mia attività fisica, mi mantengo in forma facendo questo. Mi capita abbastanza spesso, anche ultimamente, di avere dei crampi ai tendini dell'alluce del piede destro. Sì. Non so se può essere importante, io circa 10 anni fa, durante una gara sportiva di canoa, ho avuto uno strappo ai gemelli della gamba destra. Da allora i crampi si sono ripetuti più spesso. Ho fatto dell'eco Doppler anche alle gambe, normale, non c'è nessuna patologia. Però ecco, mi capita che adesso questi crampi ai tendini, e che sono veramente dolorosissimi, mi costringo ad alzarmi e cercare così di farli passare toccando la parte, magari portandolo per terra e facendo pressione. Quelli sono che posteriori, vengono... sono posteriori, diciamo, del polpaccio o anteriori nella gamba? I crampi sono del polpaccio, professore, e invece sono i crampi vengono all'alluce, al tendine dell'alluce del piede. Che si solleva l'alluce? Si solleva, Giovanni, il suo alluce? Sì, si solleva. Senta, professore, quello che insomma, in modo così non assolutamente non tecnico si chiamano anche tiranervi. Mi stanno arrivando molti messaggi su questo. Giovanni, che cosa dovrebbe fare? Le indagini ne ha già in parte fatte, ma... Lui ha fatto indagini sul fronte circolatorio, come spesso succede, mentre questo è evidentemente un aspetto neurologico. Quindi sicuramente l'alluce si solleva perché gli arriva il comando di sollevarsi. Ora bisogna capire perché arriva il comando di sollevarsi. All'alluce ci sono varie possibilità, sicuramente deve fare degli approfondimenti neurologici, probabilmente un'elettromiografia ed elettroneurografia, a volte in questi casi si fa una poligrafia, cioè si registra la persona mentre cammina, a volte anche con nei laboratori di analisi del cammino, per vedere in che modo i muscoli si muovono in sinergia fra loro. Potrebbe trattarsi di una lieve distonia, cioè del fatto che ci sia un movimento involontario dell'alluce, potrebbe essere attivata da dei fenomeni locali che creano un circolo vizioso che comunque alla fine attiva dei nervi che inviano un comando che non è un comando, diciamo, giusto, che è quello di cui il paziente si lamenta. Comunque è sicuramente un aspetto neurologico. Professore, lei ha citato una serie di esami. Si tratta dall'elettromiografia, sì. Sono esami che vengono prescritti dal medico per capire qualcosa di più dell'attività dei nervi o quando c'è una sofferenza, e sono esami invasivi o sono esami assolutamente tranquilli? Ecco. Sono esami non invasivi e nascono dalla visita neurologica. Il neurologo visita la persona, si rende conto del problema e fa delle ipotesi e cerca di verificare le ipotesi suffragandole con degli esami, quindi sono degli esami che vengono chiesti dopo una valutazione neurologica. Ci sono due o tre possibilità che così mi vengono in mente, quindi dopo un'eventuale visita si renderebbe chiara la probabilità, la più probabile e le altre meno probabili, e qui si andrebbero ad indagare con degli esami per confermarle. Ecco perché, professore, tante volte noi avvertiamo questi sintomi ma non sappiamo se siano reali o se siano, tra virgolette, uno scherzo della mente. E spesso sono reali, ecco. Spesso sono reali e non abbastanza gravi da motivare una richiesta al medico. Però attraverso questi esami è possibile avere un quadro preciso della situazione. Assolutamente, noi siamo come un po' gli elettricisti del corpo umano, quindi arriviamo abbastanza bene a capire come funzionano i vari collegamenti tra nervi e muscoli. Silvana ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una domanda al dottor Albanese. Io durante la notte, non spessissimo, mi capita di svegliarmi addirittura perché non avverto più la mano, cioè praticamente si addormenta a tal punto da farmi svegliare perché non avverto proprio l'esistenza della mano stessa. Quindi insomma mi devo preoccupare per questo, cioè è un sintomo di qualcosa, diciamo, preoccupante, o comunque fa finta di niente? Grazie Silvana. Professor Albanese, c'era già un ascoltatore con cui avevamo trattato in parte lo stesso problema di Silvana, ma per dare un'indicazione anche a lei. È difficile per telefono essere drastici, però l'impressione che potrebbe trattarsi di una sindrome del tunnel carpale, per esempio, tipica che tipicamente si caratterizza con dolori spesso notturni, che spesso portano al risveglio e poi anche diurni, ed è, qualora fosse si trattasse di questo, è una sindrome da intrappolamento, cioè un nervo che rimane intrappolato a livello del carpo, cioè della parte diciamo volare della mano, al polso, e che lì, quindi, essendo intrappolato e dato che soprattutto di notte c'è un leggero edema, un leggero rigonfiamento dei tessuti, questo intrappolamento diventa critico e produce dolore o formicoli o parestesie che poi possono portare al risveglio. In alternativa ci sono anche altre alternative, però la sindrome del tunnel carpale sicuramente rientra in questi aspetti, diciamo soprattutto con inizio notturno di formicoli e di dolori, soprattutto della mano. E noi torniamo in compagnia del professor Alberto Albanese. Professore, abbiamo, e a grande richiesta i miei ascoltatori mi scrivono di tornare a dare qualche indicazione sul tremore. Lei ha detto che tutti tremiamo? Sì, tremiamo, ci appariamo immobili, ma in realtà qualora venissimo studiati con delle apparecchiature saremmo leggerissimamente tremolanti, ma questo non è apparente. Abbiamo detto che se il tremore è bilaterale è una buona, può essere interpretato come un sintomo buono, perché è un tremore fisiologico, ma le riassumo, ci sono persone che mi dicono mi trema un braccio, una Carla che mi scrive noto che mi fanno notare che mi trema la testa, mi tremano a intermittenza i polpacci. Allora professore, abbiamo bisogno di indicazioni e soprattutto che lei ci tranquillizzi un po', perché la parola tremore scatena subito l'associazione al Parkinson. Sì, fa paura, una parola che fa paura. In realtà è una sintesi troppo, troppo forte, troppo ardita. Ci sono tantissimi tremori, vediamo quali sono i principali. Il tremore fisiologico, quindi per esempio quando noi abbiamo paura, abbiamo freddo, tremiamo, è normale che tremiamo e non è altro che un'accentuazione del nostro tremare sempre, diciamo, diventa un'accentuazione dell'ampiezza del tremore normale. Poi c'è il tremore essenziale è una malattia, tra virgolette, che in genere non è grave, può essere in alcuni casi particolari più problematica, ma in generale è il tremore fisiologico che diventa in qualche modo più ampio e più visibile e limita in qualche modo una serie di attività, può colpire le mani, le braccia, la testa, può colpire la voce, ci sono persone in cui tremano le corde vocali e quindi la voce diventa tremolante. Poi c'è il tremore distonico, che è molto importante. La distonia colpisce in genere una parte, massimo due, del corpo, sì. Quindi è un tremore anche questo asimmetrico, che è poco noto ma non raro, ed è un tremore irregolare, spesso del capo, spesso di un braccio o del collo, in cui ci sono posture anche in cui la testa è un po' storta, magari c'è un po' di scoliosi associata. E poi naturalmente c'è il tremore del Parkinson, che è il più, diciamo, famoso, il più inflazionato, che è un tremore che però è diverso dagli altri, perché in genere è a riposo o prevalentemente a riposo, compare quando le persone sono distese, riposate in poltrona o a letto, ma tendenzialmente si attenua o scompare quando muovono le braccia, quando usano le braccia, mentre tutti i tremori che ho citato prima si visualizzano particolarmente quando le persone utilizzano la parte del corpo. Quindi l'esempio che era stato fatto prima del avere il tremore quando si ha un bicchiere in mano, la tazza del caffè in mano, non fa pensare al Parkinson in modo particolare, fa pensare a questi altri tremori. Grazie professore. Abbiamo Augusto da Forlì. Augusto, buongiorno. Buongiorno. Allora, guardi, io 2 anni fa sono stato operato alla mano sinistra. Dopo l'intervento avevo bisogno di dare una crema elasticizzante per la cicatrice, sì. E ho usato delle creme a base di aglio, del Rilastil. Poi è successo che l'inverno successivo le dita che io usavo per dare la crema, sì. Come viene il freddo, io non le sento più. Hanno più freddo delle altre, diventano insensibili. Diventano insensibili. Volevo sapere se c'è qualcosa, un rimedio, oppure se mi rimangono così. Dal lato operato o dall'altro lato? No, proprio le dita che usavo per dare la crema. Quindi dal lato non operato. E va visto, sembrerebbe una sindrome autonomica, cioè il fatto che ci sia una sensibilità particolare al freddo, evidentemente causa probabilmente una vasocostrizione. Questa può avere delle cause più legate ai capillari, alle arteriole, o più legate ai nervi che vanno a controllare i capillari del sangue, quindi va visto, però sono situazioni conosciute. Professor Albanese, io la ringrazio per essere stato con noi, abbiamo fatto davvero chiarezza, arrivano infatti messaggi degli ascoltatori che, insomma, professore, è stato bravo, i nostri ascoltatori dicono che è stato chiaro, preciso, non ha fatto terrorismo, insomma, professore, vede che c'è anche una sorta di laurea che danno, un bollino che danno agli ascoltatori di Radio 24, agli esperti che piacciono in modo particolare. Quindi la ringrazio, professore. Grazie. Promosso, come è, tante volte fa gli esami lei e i suoi studenti e l'abbiamo fatto noi l'esame, promosso, pieni voti. Grazie professor Albanese per essere stato con noi. Grazie. E io voglio salutarvi con una riflessione che ho letto su un libro che mi è arrivato in redazione, L'arte di imparare ogni cosa, di Jon Kabat-Zinn. È un pensiero che io voglio regalarvi, perché secondo me oggi potrebbe farci fare un passo in più in quel sentiero della consapevolezza di cui Jon Kabat-Zinn è un grande teorico. Io intanto vi saluto, come sempre vi do appuntamento a domani. Buona giornata. La ricchezza dell'esperienza del momento presente è la ricchezza della vita stessa. Troppo spesso lasciamo che i nostri pensieri e le nostre presunte conoscenze ci impediscano di vedere le cose così come sono. Tendiamo a dare per scontato il quotidiano e perdiamo di vista la straordinarietà dell'ordinario. Per cogliere la ricchezza del momento presente, dobbiamo coltivare quella che è detta mente del principiante, una mente che è disposta a guardare ogni cosa come se la vedesse per la prima volta. Nessun momento è uguale a un altro. Ciascun momento è unico e contiene possibilità uniche. La mente del principiante ci ricorda questa semplice verità. Quando incontri una persona che ti è familiare, prova a chiederti se la vedi con occhi limpidi, così com'è, o se la vedi attraverso il filtro dei tuoi pensieri e delle tue opinioni su di lei.